Sì, abbiamo provato a, diciamo, a smontare una teoria, quella per cui anche quest'anno, anche per il 2019, bisogna aspettare per gli investimenti in campo ambientale, perché altre sono le priorità. Ieri era uscita dalla crisi economica e quindi bisognava aspettare, ora invece ci sono altre direttrici, insomma, che il governo ha scelto, appunto, reddito di cittadinanza alle pensioni. Invece noi abbiamo con questo documento messo in fila 30 proposte che dimostrano come invece nel bilancio dello Stato le risorse ci siano per questo tipo di investimenti, e in alcuni casi non bisogna neanche fare molta fatica, semplicemente bisogna far pagare chi fino ad oggi non ha mai pagato le tasse su, per esempio, le estrazioni di petrolio, sulle acque minerali, sulle cave, e in altri invece spostare la tassazione in una direzione che premi chi investe in fonti rinnovabili e in efficienza energetica. Quali sono, adesso appunto alcune misure le ha già anticipate, quali sono le priorità ambientali su cui bisogna intervenire? Beh, di sicuro la lotta ai cambiamenti climatici e la spinta all'economia circolare, che vuol dire che il nostro paese è impegnato nei prossimi anni a ridurre le emissioni di gas serra, perché appunto siamo tutti parte di questa grande lotta che dobbiamo fare ai cambiamenti climatici, e allo stesso tempo possiamo ridurre lo sfruttamento dei beni appunto ambientali puntando sull'economia circolare. Ecco, questa direttrice di cambiamento produce posti di lavoro e anche sviluppo, e può essere lanciata già nel 2019, perché appunto ci sono tanti cambiamenti che possono essere fatti subito, che riguardano ad esempio la fiscalità per premiare proprio chi investe in questa direzione. Un esempio che noi facciamo è quello delle concessioni, insomma, l'estrazione per esempio di materiali di pregio come di acqua, o la sfruttamento appunto delle concessioni balneari, ma anche la gestione delle autostrade e degli aeroporti passa per delle concessioni che possono essere iscritte per premiare appunto chi investe in innovazione, efficienza e generare anche risorse. L'altro esempio è l'IVA. L'IVA che noi paghiamo sui beni e sui servizi oggi non è pensata per premiare un prodotto che viene fatto in Italia, magari da una filiera locale, magari dal biologico o dal recupero. Ecco, se noi riusciamo a guardare dentro l'IVA, capiamo che possiamo ridurla per chi investe in direzione di innovazione, invece lasciarla inalterata, aumentarla per chi per esempio importa un bene che arriva da lontano. In questa direzione si può creare lavoro e non si impatta assolutamente sul bilancio dello Stato. Ogni autunno in Italia ci sono alluvioni o frane e spesso anche vittime, ce n'è una appunto in Sardegna, insomma, proprio in quest'oggi. Ogni autunno si dice, insomma, spesso i politici dicono che serve un piano per messa in sicurezza del paese e poi non succede niente. Ecco, il contrasto al dissesto idrogeologico è tra le priorità che indicate? Assolutamente sì, noi facciamo anche un esempio molto concreto. Qual è uno dei punti deboli della politica italiana in questo momento nella lotta ai cambiamenti climatici? È nelle città, perché i comuni non hanno le risorse per fare quello che si fa in tutti gli altri paesi europei, ossia fare dei piani che individuino le priorità per mettere in sicurezza il territorio e quindi capire appunto le zone che sono più a rischio di finire sott'acqua la prima pioggia, oppure d'estate in cui le persone soffrono per le ondate di calore. Quindi prevediamo 200 milioni di euro l'anno per risorse da dare alle città in questa direzione, in modo che sappiano dove investire e poi abbiano anche i soldi per fare gli investimenti. Oggi in Italia manca un piano nazionale e mancano anche delle politiche locali, però queste a livello locale oggi sono più urgenti. Noi diciamo partiamo da qua e abbiamo anche individuato le risorse, e nel frattempo abbiamo anche individuato da dove prenderle, perché appunto dalle concessioni fino alla fiscalità sulle fonti fossili, lì ci sono moltissime centinaia di milioni di euro che si possono recuperare. Certo, una parola chiave oggi è resilienza, visto che stiamo già facendo i conti con i fenomeni atmosferici sempre più violenti a causa dei cambiamenti climatici, però bisogna anche cambiare approccio, perché il consumo di suolo nel nostro paese continua. Sì, purtroppo continua, anche se appunto oggi anche la richiesta da parte delle persone è diversa, nessuno più chiede di far crescere il consumo di suolo e di aree agricole, di aree naturali. La sfida del nostro paese è quella della riqualificazione del patrimonio edilizio per metterlo in sicurezza e poi di rigenerare invece le nostre città, le nostre periferie, che in troppi casi sono brutte e invivibili. La sfida della riqualificazione è la risposta migliore alla domanda che c'è nel nostro paese di casa, perché c'è una domanda di casa di tante famiglie, e che può essere trovata lì dentro invece che con nuove espansioni urbane. Una componente del governo, il Movimento 5 Stelle, che in passato ha mostrato attenzione per i temi ambientali, confida che possa essere sensibile alle vostre richieste? Noi ce l'auguriamo, fino adesso non abbiamo avuto molte, diciamo, risposte concrete. Quello che noi chiediamo è che, a partire però dalla legge di bilancio, questo cambiamento che, appunto, di cui si parla anche nel contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle, poi si comincia a vedere in campo ambientale, e il nostro compito ovviamente è di fare in modo che queste promesse in qualche modo vengano rispettate, e anche il nostro auspicio.